Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera ad Alberto Clò. Buonasera professore. Buonasera a voi. Alberto Clò insegna economia industriale e regolazione public utilities nell'Università di Bologna. Dal 95 al 96 è stato ministro dell'industria. Ha scritto il libro, si fa presto a dire, Nucleare. È un titolo che è tutto un programma, edito dal Mulino. Si fa presto a dire nucleare. E Alberto Clò, fin dalla premessa, dice: sono un nuclearista non pentito. Però, ecco, perché questo però, professor Clò? Nel senso che sono consapevole, perché ho anche l'ho molto sofferto. Diciamo, sono consapevole della storia eccezionale nella sua fase iniziale, pionieristica. Noi siamo stati il terzo paese al mondo, insomma, in una situazione post bellica in cui eravamo veramente messi peggio di molti altri, quindi abbiamo avuto un inizio straordinario. A cui ha fatto seguito però, diciamo, decenni di occasioni sprecate, di risorse distrutte, di illusioni, fino ad arrivare, diciamo, alla vicenda referendaria che segnò l'uscita definitiva del nostro paese. Quindi c'è molta amarezza nel guardare il passato. Soprattutto perché questa storia insegna molte cose, quindi nel momento in cui si auspica, si opera per rientrarvi, io penso che bisogna trarre insegnamento da quella storia per evitare gli errori, per imparare dagli errori passati e non ripeterli. E gli errori passati ci dicono che questa è, diciamo, un'opzione tecnologica in cui io credo che questo possa essere, diciamo, un progetto di modernizzazione del nostro paese, di rientro in uno dei settori tecnologicamente più avanzati. Ma sarebbe, diciamo, distruttivo se sprecassimo questa occasione senza avere appunto consapevolezza dei molti problemi e delle molte difficoltà. Non è sufficiente prospettare l'opinione pubblica per raccogliere il necessario consenso, le virtù vere, presunte, penso vere, no, del nucleare, ma evidenziare, soprattutto anche per recuperare una credibilità perduta, evidenziare le difficoltà e prospettare le soluzioni che si pensa di mettere in atto per superare, le risorse. Non è pensabile che in un settore così complesso, avanzato, in cui siamo usciti da un quarto di secolo, in cui abbiamo distrutto la risorsa principale del nucleare, che è il sapere scientifico, il sapere progettuale, manifatturiero. Certo, qualcosa è rimasto, ma non si può, no, non avendo contesto della distruzione che ahimè è venuta, immaginare nel giro di pochi anni di fare uno dei piani nucleari più ambiziosi di tutto il mondo industrializzato, 8-12 centrali. Ecco, l'amarezza del passato, ma anche la consapevolezza del passato e la consapevolezza delle difficoltà mi portano appunto ad aver scritto questo libretto, Si va presto del nucleare. Ecco, lei parla di ambigua riscoperta del nucleare. Sì, uno perché il mio libro ha queste tese, diciamo le cose come stanno. Io vedo due grandi condizioni necessarie, sono molte, diciamone due. Una, la necessità assoluta di una larghissima, diciamo, consenso politico per evitare tragicommedie come il ponte sullo stretto di Messina. Certo. Non si va da nessuna parte forzando le cose, è meglio neanche partire, ma meglio andare molto lenti, però su solide basi. Non possiamo immaginare che nessuna impresa sia così folle da investire un euro col rischio che al prossimo passaggio elettorale o al prossimo referendum tutto, diciamo, abbia a distruggersi ulteriormente. Io sono nucleista e non andrò al referendum al mare e spero che non passi, perché non è questo il modo in cui, no? Quindi, a chiarire le cose. Quindi ci vuole, prima condizione, una, diciamo, forte, diciamo, fondamenta di condivisione politica, un percorso condiviso nei tempi che saranno necessari, quindi senza accelerazione, forzature, che tra l'altro sono false promesse, queste non sono fatti, sono irrealistici. L'altra è sul piano dell'economicità, dei costi. Qui il problema va posto nei termini in cui io ritengo sia corretto porre. Nel mio libro sostengo la tesi che il nucleare è incompatibile con un assetto concorrenziale di mercato privatistico, perché ho presente quali furono le condizioni che in passato consentirono il grande sviluppo del nucleare, fino, diciamo, agli anni 90, perché poi anche altrove, diciamo, vi fu una forte riduzione degli ordinativi. E vi furono tre condizioni. Allora, i mercati elettrici non erano concorrenziali, erano monopolistici, in gran parte pubblici in Europa. E le tre condizioni su cui poggiò, diciamo, lo sviluppo del nucleare furono: uno, gli aiuti di Stato. Non vi è centrale al mondo che non sia stata pagata dai contribuenti, direttamente o indirettamente. Quindi aiuti di Stato che oggi non sono possibili. Due, chi investiva aveva il monopolio del mercato, nazionale o territoriale, per cui non aveva il fiato sulle spalle di altre centrali elettriche, quindi era sicuro di, diciamo, collocare la produzione. La terza condizione, quella principale, era che l'autorità di regolazione, che fosse il ministero, autorità indipendenti, fissava i prezzi e le tariffe sulla base dei costi sostenuti. Quindi chi investiva, diciamo, spesso non investiva dei suoi perché erano soldi pubblici, non affrontava nessun rischio. Ecco, quindi c'è un'incompatibilità tra una realtà di mercato. Oggi chi investe cifre enormi, di cui è difficile ex ante sapere l'entità, come dimostra l'esperienza finlandese, e deve fronteggiare enormi rischi. Rischi di mercato, rischi di prezzo, il rischio appunto che le fonti alternative, specificamente il gas, possano avere prezzi talmente bassi da rendere. Quindi chi è quel folle che va a investire? Quindi chiariamo le cose: se chi investe e impegna del suo, di chi lo finanzia, no, se ne sopporta oneri e onori, io gli faccio gli auguri, sono ben contento, no, gli auguro di aver fatto bene i conti, perché come dice molte banche, queste nucleari rischia di essere un corporate killer, no? un omicida di imprese addirittura. Quindi se l'investitore privato ritiene che è conveniente, la discussione sulla convenienza è un falso problema. Io, se uno vuole fare un investimento di bicicletta, non gli vado a chiedere, che certo, nel rispetto di tutte le regole di sicurezza e quant'altro. Se quindi è un fatto privato, no, non interferisco sulla sua convenienza, spero che abbia fatto bene i conti. Ma se non è in questi temi, io non ritengo in questi temi, per cui di fatto l'investitore privato non rischia cifre così enormi senza garanzia, allora il discorso diventa non più privato ma pubblico. E allora giochiamo carte scoperte, vediamo quali sono le garanzie che gli investitori, diciamo, richiedono per poter sobbarcarsi i rischi che in contesto privatistico sono, a mio avviso, insostenibili. Ecco, ma in prospettiva c'è bisogno comunque di scelte energetiche per il paese, non si può continuare essere... Io, su questo, diciamo, altro aspetto, che noi oggi abbiamo un parco elettrico tra i più moderni in Europa, le abbiamo profondamente rinnovato negli ultimi due decenni, in larga parte anche per gli incentivi, ma comunque oggi ci troviamo con una potenza elettrica nuova, in larga parte nuova, più moderna, con alti rendimenti, alimentata a gas. Questa è la scelta post-nucleare che è stata fatta, andiamo a tutto gas. Però bisogna avere la consapevolezza che i sistemi energetici decidi oggi con effetti tra 15, 20, 20 anni. Oggi noi abbiamo una potenza elettrica che tra l'altro è due volte la domanda, abbiamo un eccesso di potenza elettrica enorme e quindi non possiamo decidere di distruggere tutto questo per cui i ragionamenti, diciamo, le scelte che oggi si fanno nel campo nucleare le dobbiamo proiettare nell'arco dei prossimi decenni e quindi non testare a forzare le cose perché poi i tempi saranno lunghissimi. Allora a questo punto ritengo, legando l'aspetto economico, quale protezione e garanzie le imprese richiedono. Chi paga in sostanza? Allora quando nei documenti governativi si leggono frasi come necessità di socializzare i rischi da contribuente, da utente, no, mi si dice l'orecchia, cosa significa? Perché questo mi ricorda molto il vecchio slogan, ma è sempre valido, quindi pubblicizzare i costi e privatizzare. No, certamente. Ecco, professor Clò, per concludere, comunque allora dobbiamo vedere un futuro in cui ancora il gas e il petrolio saranno centrali, le energie alternative avranno un ruolo comunque importante ma marginale. No, attenzione, noi oggi stiamo spingendo al massimo, pompando al massimo le rinnovabili, con un costo enorme. Lo dobbiamo fare perché siamo vincolati presso il petrolio d'Europa a raggiungere un certo obiettivo che è del 20%, no, del consumo finale, per l'Italia 17%. Questo significa che però questo aumento delle rinnovabili noi lo stiamo sostenendo con incentivi straordinariamente elevati. Qui si può valutare grosso modo che da qui ai prossimi 20 anni noi abbiamo già in pancia 100 miliardi di euro di incentivi che si scaricheranno sulle tariffe. quindi stiamo aumentando le rampe che dobbiamo aumentare. A questo punto impostiamo pure anche un discorso sul nucleare, che però, mio avviso, come legando quello che dicevo all'inizio, si basi su una scelta condivisa sul piano politico e chiarisca bene quali sono gli effetti che ne potranno derivare, no, in termini di sostegno, di protezione, garanzia o socializzazione dei rischi. Perfetto, grazie professor Clo. E per capire appunto tutte le implicazioni della scelta nucleare è molto utile questo libro che, ricordo, si fa presto a dire, Nucleare, edito dal Mulino, sono 180 pagine per 14 euro, è scritto appunto da Alberto Clo, che ringraziamo per la sua presenza, e insegna economia industriale a Bologna ed è stato ministro dell'industria. Ricordo, si fa presto a dire Nucleare. Grazie professor Clo, grazie a Filippo Regi in regia, di Tapparizza in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.